Padre O. Mio anziano maestro di religione. 27 dicembre. Adesso viene da me Mapio. In una condizione molto triste. Egli fu. E per parecchio tempo mio insegnante di religione. Ancora non può parlare. La sua tristezza mi tocca moltissimo, perché io gli ho voluto tanto bene. Ora si vedono quasi sempre gli 11, quando passo sotto il monte. Essi diventano più piccoli. Ora sono quasi come bambini. 30 dicembre. Una notte terribile. La mia camera era piena di figure, ma nessuna riconoscibile. Per la prima volta mi sentii avvolta in un pessimo odore. Esse si gettarono sul mio letto, ne potei contare 7, ma erano parecchie di più. Si continua ad entrare e uscire dalla finestra. Io sono piuttosto timida, e se la cosa va avanti così, io non ne posso più dalla stanchezza. 5 gennaio 1925. E qui la zeta essa fa una profonda e triste impressione. Mentre prego, mi viene molto vicina, e così mi mostra la sua soddisfazione, essa mi accarezza anche, cosa che io non vorrei proprio. 7 gennaio. Adesso parla. Io, che cosa vuoi da me? Lei, una santa messa. Io, devi soffrire molto? Lei, sono nella purificazione. Io, vuoi dire quello che noi chiamiamo purgatorio? Lei, sì. Io, Eli, che cosa senti? Lei, il desiderio, la nostalgia mi consuma. Io, perché devi soffrire così? Lei, bestemmie. Io, sei contenta? Ti aiuta se io prego per te? Lei, sì. Io, in questo tuo stato attuale hai potuto pregare? Lei, adorare, ma non chiedere. Io, e adesso? Lei, adesso preghi tu per me. L'8 gennaio lei tanto a lungo qui, non ne potevo più. Io, fammi il piacere, vattene via, io sono così assonnata. Nota. Osservazione di Don Sebastiano Wieser. La zeta la ho conosciuta e sono andato spesso a trovarla quando era ammalata. Sono molto strane le risposte di questa donna, che durante la sua vita non conobbe simili concetti. Lei, abbi ancora misericordia. Io, ma una preghiera così detta solo con le labbra, non ti può giovare, e io non sono più capace di pregare come si deve. Lei, la tua presenza rinfresca. Io, dimmi, perché? Lei, tu allievi il dolore. Io, se io vi aiuto, allora aiutatemi anche voi. Tu puoi certamente vedere ciò che c'è in me di cattivo. Lei, tu non sei del tutto mortificata. Io, sì. È vero, io non lo sono, ma dimmi di più. Lei, quanto più rinunci, tanto più puoi dare. Mi pare che ci fu ancora qualche frase, ma non posso distinguere bene. 9 gennaio. Io stavo parlando con sua figlia, lei venne, mi fece un cenno di saluto e guardò con penetrazione sua figlia. Io quasi non riuscii più a continuare il DSCGRSO, e quella si fermò vicino a me. Io, perché non ti sei fatta conoscere da tua figlia? Lei, perché essa non è libera. Io, nemmeno io sono libera, e allora perché io ti vedo? Lei, tu ti sei liberata. Una prova che quei poveretti non vedono tutto. Io, è liberata, mentre sono in mezzo al mondo e tante cose mi circondano. Il mio corpo malato mi fa perfino trascurare la mia anima, cosa che mi fa molto soffrire. Spesso sono avvilita, ma poi ritorna l'indifferenza. E poi ritorna più di frequente l'unica, la grandiosa, la felicità così piena di consolazione, che mi fa dimenticare tutto.